ma il mio sguardo resta fisso, rivolto soltanto al cielo. Mi propongono un contesto poco onesto sulla terra. Dopo che hanno ucciso a Cristo, hanno visto e fatto una guerra. E adesso sanguinano mani di innocenti, perché ho di sopra le croci per atroci sentimenti che non senti neanche più, perché non guardi più su, perché non vedi più niente come Mr. Magoo. Chi ci crede adesso prega e porta fede più di Emilio, ma non viva il Vaticano e non indice ma un concilio. Il pane va diviso mentre il vino condiviso, e se Abel ora viene ucciso sarà colpa di Caino. È qui d'inciso l'uomo che ha già deciso, è lo stesso che ti ha deriso per controllare il tuo destino. Nel nome del Signore si è arricchita le tue spalle, nel nome del figlio all'appiglio per attrarre folle. Con quello dello spirito gestisce la sua villa, ma il vero santo è nato dentro una stalla. Io lo so che ci sei, so che vegli su noi, anche se tu lo sai che non tutti sono re. Vedo dei farisei, per fortuna ci sei, non so come fare, non so se spererei. Io lo so che ci sei, so che vegli su noi, anche se tu lo sai. Chiunque voglia fare solo sesso, condannano i gay per l'istinto diverso. La gente per la strada vive senza contratti e magari svolge atti che non immagini o pensi. Perdonali Signore per i loro misfatti, per i patti sbagliati come quelli lateranensi. Troppi bugiardi con gioielli d'avorio che adesso fanno solo sgarbi proprio come a Vittorio. Si passano per umili ma invece sono inutili, futili e propri simili. Gestiscono il potere temporale e spirituale in una loggia ormai legale nella quale il fedele neanche a vedere, ma il giudizio universale sarà tale per tutti, pure per i delitti commessi dal cardinale. Mentre in terra la giustizia vizia la persecuzione, tutela chi accusa la gente per la sua religione o per la posizione. Sei in opposizione, sei una minoranza che avanza nella nazione. Dio mio, tu lo sai che per chi vive in strada la vita in ogni quadra perché è vista da una grata. Mentre il tuo sacerdote fa più frode di Erode, commercializza il tuo tempio e lo scegli adesso non bada. Io lo so che ci sei, so che vegli su noi.